Gates e Steve Jobs, con cui avevo avuto a che fare in passato. Dunque, il 2004 è Harvard. Quanto è importante in questa storia, che è tutt'altro che, come dire, che completa, che scritta, ma che sicuramente in questi anni ha già una storia formidabile, l'ambiente della celebre università? It is sort of important because actually Facebook's Beh, è importante, è stato davvero importante il contesto proprio dell'università di Harvard, anche perché, insomma, la vera e propria esistenza di Facebook si basa sul concetto di identità. È un social network che si basa sulla identificazione reale di ciascun utente, nel senso che ognuno ci mette la propria faccia quando vuole appunto diventare membro di Facebook. E questo è stato proprio una caratteristica, nel senso che proprio all'inizio l'incipit di Facebook prevedeva che si dovesse lasciare proprio l'indirizzo email dell'università per potersi iscrivere. E quindi ovviamente l'idea di Facebook era quella, almeno l'idea primigenia, di una comunità circoscritta persone con le quali avevi a che fare anche a livello di così rapporti di tutti i giorni, che conosci, che facessero parte del mondo reale e che usassero il loro vero nome. Quindi questo ethos è un ethos che ha un po' contraddistinto Facebook subito dall'inizio. Modality for how the system will operate has continued to this day. È una storia molto giovane, ma è anche una storia con dei momenti di grande tensione e anche con dei processi. L'accusa forse più grave tra le molte, si può dire, che Mark Zuckerberg ha attirato in questi anni è quella di non avere inventato Facebook, ma di avere copiato. In particolare due gemelli lo hanno coinvolto in una causa che è sì industriale, ma è anche etica. Well, I don't think Zuckerberg is an intellectual thief. Ma io penso che non si possa davvero accusare di furto intellettuale Zuckerberg, perché in quel tipo di ambiente, in quel tipo di contesto, ogni idea, soprattutto le idee brillanti, in un modo o nell'altro sono tutte copiate. Non è certamente lui l'antesignano di questo tipo di movimento. Prendiamo per esempio Friendster o MySpace. Ci sono comunque stati dei tentativi, in modo particolare da Friendster, di mettere su questa social network che fosse appunto basata sull'identità, anche se non ce l'hanno fatta. E quindi anche i due gemelli che hanno accusato Zuckerberg probabilmente hanno avuto delle idee, ma sicuramente non sono riusciti a lanciarle e a farle e a renderle vive, a renderle interessanti come Zuckerberg. Bisogna anche tenere in considerazione che appunto Mark era uno che si è sempre interessato di psicologia, quindi nell'ambito di questo suo sforzo di sviluppo di questo social network, lui ha tenuto in considerazione, ha messo insieme tutta una serie di aspetti, di particolari, di dettagli che hanno permesso a questo social network di avere decisamente più successo rispetto agli altri. E poi, insomma, teniamo anche in considerazione il fatto che Facebook non è nato semplicemente da un'idea unica, ma è stato davvero un coacervo di idee brillanti messe insieme. E poi soprattutto non è stata certamente la prima idea che Zuckerberg ha avuto, nel senso che in quel periodo, e gli ho parlato molto lungamente a questo proposito, lui era uno che sperimentava, prima sicuramente di avere messo a punto, di aver inventato per così dire Facebook. Lui sicuramente aveva giocato, aveva sviluppato tutta una serie di giochini che anno dopo anno inventava, metteva a punto, quindi non aveva certo bisogno di andare, per così dire, fra virgolette, a rubare nuove idee agli altri in quel periodo, prima di mettere a punto appunto Facebook. E anche questa idea, no, di questi due che dicono ma mi ha rubato l'invenzione eccetera, non so neanche come davvero abbiano fatto a perseguirlo legalmente e avere la possibilità di avere appunto qualcuno che li seguisse in questa loro azione legale, perché secondo me non aveva assolutamente ragione di essere. Parliamo di alleati e di rivali. Come in ogni storia industriale, anche quella dell'industria digitale è fatta di grandi rivalità e alleanze. Abbiamo già citato Gates e Jobs, che sono, mi consenta il paragone italiano, i Coppi e Bartali della nostra generazione in termini digitali, generazione dei 40-50 anni. Ecco, chi sono gli alleati di Mark Zuckerberg? Chi è il suo principale rivale? Well, that's an easy question. Microsoft is his closest ally and Google is his biggest rival. Eh beh, è abbastanza semplice capire chi è alleato. Microsoft è il principale alleato, mentre Google è decisamente in questo momento il concorrente principale. Apple sta così un po' a metà strada, nel senso che non hanno ancora capito davvero Apple come riuscire ad interagire. C'era stato appunto questo progetto e questo prodotto che Apple aveva messo a punto, PIN, che era una specie di piattaforma che sviluppava appunto contenuti musicali sulla base di iTunes, però non sono riusciti, per così dire, a connettersi come si deve con la rete di Facebook, e quindi non c'è stato il successo e quindi non c'è stata quell'alleanza che si sperava ci fosse. Ovviamente, per quanto riguarda Microsoft, Microsoft è necessaria a Facebook dal punto di vista appunto della funzionalità di search, e giustamente, come dicevo prima, Google è il principale avversario, anche se però, insomma, acquista sempre di più quota di mercato negli Stati Uniti d'America e molto probabilmente lo farà anche in Europa. Però anche lì è una, diciamo, una concorrenza, è un essere rivali che inizia e finisce non si sa bene come, nel senso che ovviamente anche Google ha cercato di fare una partnership con Microsoft, e da questo punto di vista Google è un operatore che sta cercando, per esempio, di rendere sempre più fruibile il suo sistema Android, che è un sistema operativo che viene usato sui telefonini, e quindi da un certo punto di vista anche Google, che è un rivale di Facebook, dipende sempre, misura sempre crescente, da Facebook, perché se non si appoggiasse a Facebook il suo sistema Android, insomma, fallirebbe. Quindi c'è questo concetto veramente sempre più pregnante di co-opetition, cioè di collaborazione che è anche competizione, e quindi è molto difficile a questo punto, i confini non sono così chiari fra quello che significa essere un alleato e quello che significa essere un rivale. E quindi, ovviamente, ripeto, Android, per funzionare, ha bisogno in massima parte di un collegamento con Facebook. 30 minuti in cronaca. Effetto Facebook, dall'Iran fino alla piazza Tahrir, da strumento di connessione tra i college. Con il passare del tempo, il social network più importante del mondo è diventato un elemento che contribuisce anche addirittura alla trasformazione sociale del nostro mondo. Ne parliamo e continuiamo a farlo questa sera con David Kirkpatrick, autore di Facebook, la storia. Allora, David, fino a che punto vuole arrivare, secondo lei, Mark Zuckerberg? Beh, ci sono due cose da dire. Prima mi permetta di parlare un attimo di quelli che sono i coinvolgimenti politici, le considerazioni politiche che hanno a che vedere con Facebook. Decisamente è più che una rivoluzione a livello planetario, dal punto di vista sia politico che economico che sociale. E poi è la prima piattaforma, non dobbiamo dimenticare, che permette ad ogni singolo individuo di trasmettere contenuto, anche se si tratta solamente di una trasmissione agli amici. Questo è comunque un grandissimo cambiamento, e l'abbiamo visto in Tunisia, l'abbiamo visto in Egitto, l'abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto nello Yemen, l'abbiamo visto in Libia, che cosa questo tipo di trasmissioni, di piattaforme, di possibilità di trasmettere da una piattaforma ha portato. E questo ovviamente permette una grande diffusione delle notizie con un tempo assolutamente brevissimo, e questo è decisamente ciò che ha permesso i cambiamenti che abbiamo visto capitare, per esempio, nel Nord Africa. Poi, dal punto di vista del numero degli utenti, sicuramente Facebook supererà il miliardo di utenti. Si prevede già che superi il miliardo di utenti entro l'anno prossimo, se non addirittura prima della fine di quest'anno. Poi, per quanto attiene invece al futuro di Facebook, la situazione è più complessa, perché ovviamente, oltre alle tante qualità che ha Facebook, quelle che per esempio ho già citato, il fatto che ogni singolo individuo possa far sentire la propria voce, ci sono però anche dei problemi di privacy, dei problemi di identità, dove Facebook si ritrova un pochino così, non dico a fare a botte, ma quasi, con certi governi che vorrebbero esercitare un controllo più capillare su quello che succede all'interno di Facebook. E non dobbiamo dimenticarci che Facebook, essendo una rete globale non può e non deve essere controllata in modo partigiano dai governi, e se questo succederà si opererà una sconnessione fra quello che è le capacità, le possibilità che offre Facebook e il controllo invece che i governi vogliono esercitare. È un po' come quello che sta succedendo nell'ambito del sistema monetario internazionale, che quando si vuole esercitare un potere, diciamo, di controllo smodato, poi le cose non vanno bene ma vanno male. Quindi dal punto di vista del futuro di Facebook io davvero lancio un appello, nel senso che i governi devono stare attenti, perché se vogliono regolare e controllare una piattaforma di questo genere, Facebook sarà decisamente condannato a un rallentamento, e questo per Facebook diventerà un problema grosso. I think they could slow it down a lot, and that could be the biggest single problem that Facebook may face. Quanto potere nelle mani di questo ex studente di Harvard? Mark Zuckerberg vive la sua crescita con qualche elemento di inquietudine? In my opinion, he should have more fear. Ha un potere davvero incredibile, secondo me, almeno questo è quello che penso io, però dovrebbe davvero, insieme al potere, avere anche così delle paure. La principale sua paura credo sia quella di essere rallentato dal controllo che i governi vogliono esercitare su Facebook, e credo che lui, da persona intelligente qual è, se ne renda conto e ce l'abbia questa paura. Ecco perché, per esempio, ha presenziato al G8. Certamente lui è una persona potentissima, perché ha un controllo assoluto e totale di questo social network, e oltretutto anche ha un controllo a livello di consiglio di amministrazione, controlla pienamente 3 membri del consiglio di amministrazione su 5, è il capo di un'azienda di 2500 persone che ha 750 milioni di clienti in tutti i paesi del mondo, e per un 27enne direi che non è male. Io non credo si sbagli se lo si paragoni a Alessandro il Grande, anche se secondo me Alessandro il Grande, fatte le debite proporzioni e i debiti paragoni, era ancora meno potente di quanto è potente lui in questo momento. I think singular influence on culture. Molto potere, grandi responsabilità, direi, parafrasando un eroe della Marvel. Ma ecco, insisto su questo punto, lui ne è consapevole? I think he's become very aware of it. Io credo che sia davvero estremamente consapevole, però è anche uno che, nonostante la consapevolezza del suo potere, se la controlla bene, perché sa bene, molto bene, come controllare i nervi. È una persona che ovviamente ha fiducia, non solo fiducia in se stesso, ma anche fiducia negli altri, e credo che si senta anche un po' un predestinato, nel senso che lui davvero di se stesso pensa che, insomma, ci si è trovato dentro in mezzo, doveva fare questa cosa, la sta facendo. C'è una certa inevitabilità da parte sua nel pensare che, insomma, questo era un sistema che lui ha messo a punto, che serve per cambiare il mondo e che gli serve soprattutto per implementare quelle che erano le sue idee, le sue convinzioni sulla trasparenza, sulla condivisione, e che questo inevitabilmente ha comportato anche una crescita estremamente rapida. Cioè, diciamo, in altre parole, è un perfetto interprete dello zeitgeist, e quindi sa benissimo di avere costruito un sistema e sa benissimo quanto questo sistema valga e come gestire. Già a un anno dalla nascita di Facebook c'era chi lo voleva comprare, l'interesse di MTV nell'autunno del 2005 è stato uno di questi momenti, ma insomma oggi della possibile entrata in borsa di Facebook parlano tutti i grandi quotidiani economici internazionali. L'effetto LinkedIn recente è già stato un piccolo terremoto, si parla di bolla, di nuova bolla di internet. Ecco, in tutto questo, qual è la posizione di Mark Zuckerberg rispetto al futuro anche finanziario della sua società? Well, Facebook will go public in 2012. Si credo che proprio si quoterà nel 2012, sarà la IPO decisamente più grossa del mondo. Credo che il valore d'inizio che verrà assegnato a Facebook supererà i 100 miliardi di dollari, e credo che questa valutazione, che sembra assolutamente smodata, sia invece giustificata, perché se ci pensiamo bene è davvero l'unica vera piattaforma globale che permette di avere qualsiasi tipo di possibilità e commerciale e di marketing e anche pubblicitaria, ed è l'unica davvero piattaforma sulla quale possono girare tutte le applicazioni a livello di qualsiasi nazione, di qualsiasi tipologia, di qualsiasi media. E poi non dobbiamo neanche dimenticare che adesso Facebook può disporre del proprio denaro, nel senso che con Facebook Credit si riesce ulteriormente a monetizzare tutte le altre attività. Quindi